cerca di un minimo di eternità, figlio minore compreso ma usato, diviso per vite vissute a metà. Qui dove sto io, dentro una festa per nascondermi, è qui dove sto io, qui dove sto io. Ho tante piccole cose da fare e poco tempo per restare, fretta e smania ancora da gestire, ansia e rabbia ormai da smaltire. Sto io, ci sono i santi a cui rivolgersi, è qui dove sto io, qui dove sto io, qui dove sto io, è qui dove sto io. Principe diseredato, modello di imperfezione. Troppe parole e l'autostima persa sotto l'altare per una moglie che se ne va. Qui dove sto io, poveri cristi tra cui confondersi, è qui dove sto io, è qui dove sto io. Gonne di madri dove inciampare, pochi interessi da coltivare, troppe emozioni per non venire, branchi di anime senza pietà.